Ma la prima di queste caratteristiche venne meno abbastanza rapidamente, perché ben presto Cottard morì faccia a faccia col nemico, come scrissero i giornali, pur non essendosi mai mosso da Parigi, ma essendosi in effetti sovraffaticato per la sua età, seguito ben presto dal signor Verdurin, la cui morte addolorò una sola persona, che fu, chi lo crederebbe, Elstir. Io avevo potuto studiare la sua opera da un punto di vista, per così dire, assoluto, ma lui, soprattutto a mano che invecchiava, la collegava superstiziosamente alla società che ne aveva fornito i modelli e che, dopo essersi trasformata in lui, grazie all'alchimia delle impressioni, in opera d'arte, gli aveva dato il suo pubblico, i suoi spettatori. Sempre più incline a credere materialisticamente che una parte rilevante della bellezza risieda nelle cose, così come per cominciare aveva adorato in Madame Elstir il tipo di bellezza un po' greve che aveva perseguito, accarezzato nei suoi quadri, nei suoi arazzi. Vedeva ora sparire con Verdurin uno degli ultimi resti della cornice sociale, della cornice peritura, non meno rapidamente caduca, delle stesse mode del vestire che ne fanno parte, che sostiene un'arte, ne certifica l'autenticità, non diversamente da come la rivoluzione, distruggendo le eleganze del XVIII secolo, avrebbe potuto rattristare un pittore di feste galanti, o la scomparsa di Montmartre e del Moulin de la Galette affliggere Renoir. Ma in Verdurin egli vedeva sparire soprattutto gli occhi, il cervello che della sua pittura avevano avuto la visione più giusta, nei quali questa pittura, allo stato di ricordo amato, in un certo senso risiedeva. Certo, c'erano adesso dei giovani che amavano a loro volta la pittura, ma un'altra pittura, e non avevano, come Swann, come Verdurin, ricevuto lezioni di gusto da Whistler, lezioni di verità da Monet, che consentissero loro di giudicare Elstir con giustizia. Così Elstir si sentiva più solo alla morte di Verdurin, con il quale pure aveva rotto da tanti anni, e fu per lui come se un po' della bellezza della sua opera si eclissasse assieme a un po' di quanto, nell'universo, di tale bellezza era conscio. Quanto al mutamento subito dai piaceri del signor di Charlus, esso rimase intermittente. Intrattenendo una copiosa corrispondenza con il fronte, il barone non mancava di militari in licenza abbastanza maturi. Ai tempi in cui credevo a quel che si diceva, sarei stato tentato, sentendo la Germania, poi la Bulgaria, poi la Grecia proclamare le loro intenzioni pacifiche, di prestarvi fede. Ma da quando la vita con Albertine e con Françoise mi aveva abituato a sospettare in loro pensieri, progetti che non esprimevano, non permettevo ad alcuna parola, in apparenza giusta, di Guglielmo II, di Ferdinando di Bulgaria, di Costantino di Grecia, di ingannare il mio istinto che indovinava cosa ciascuno di loro stesse macchinando. E i miei litigi con Françoise, con Albertine, non erano stati certamente che litigi particolari, interessanti unicamente la vita di quella piccola cellula spirituale che è una persona. Ma come avviene per i corpi di animali, per i corpi umani, insiemi di cellule, ciascuno dei quali è, in rapporto a una sola cellula, grande come il Monte Bianco, così esistono enormi ammassi organizzati di individui che chiamiamo nazioni, la cui vita non fa che ripetere, amplificandola, la vita delle cellule che li compongono. E chi non è in grado di capire il mistero, le reazioni, le leggi di quest'ultima, non pronuncerà che frasi vacue quando parlerà delle lotte fra nazioni. Se, invece, padroneggia la psicologia degli individui, allora quelle masse colossali di individui conglomerati che si affrontano l'una con l'altra prenderanno ai suoi occhi una bellezza più potente della lotta che scaturisce solo dal conflitto di due caratteri, e le vedrà nella stessa scala in cui degli infusori 10.000 dei quali non basterebbero per riempire un cubo d'un millimetro di lato, vedrebbero il corpo d'un uomo d'alta statura. Da qualche tempo la grande figura Francia, riempita sino al perimetro di milioni di piccoli poligoni di varia forma, e la figura, riempita d'un numero ancor maggiore di poligoni, Germania, avevano fra loro due di questi litigi. Così, da questo punto di vista, il corpo Germania e il corpo Francia, nonché i corpi alleati e nemici, si comportavano in una certa misura, come individui. Ma i colpi che si scambiavano erano regolati dalla box incalcolabile di cui Saint-Louis mi aveva esposto i principi. E poiché, anche considerandoli dal punto di vista degli individui, essi ne costituivano dei giganteschi insiemi, il litigio assumeva forme immense e magnifiche, come un oceano che, sollevandosi con milioni di onde, cerca di infrangere una secolare barriera di scogli, come giganteschi ghiacciai che, con le loro oscillazioni, lente e devastanti, tentano di spezzare la cornice di montagne in cui sono circoscritti. Malgrado ciò, la vita continuava pressoché identica per parecchie persone che sono comparse in questo racconto, e segnatamente per il signor di Charlus e per i Verduren, come se i tedeschi non fossero stati tanto vicini, giacché il permanere, minaccioso, anche se momentaneamente sotto controllo, d'un pericolo, ci lascia, se non ce lo raffiguriamo, del tutto indifferenti. Le persone corrono abitualmente ai propri piaceri senza mai pensare che, qualora venissero meno gli influssi indebolenti e moderatori, la proliferazione degli infusori, sviluppandosi al massimo, ossia facendo in pochi giorni un balzo di parecchi milioni di leghe, passerebbe da un millimetro cubo a una massa d'un milione di volte più grande del Sole, distruggendo in pari tempo tutto l'ossigeno, tutte le sostanze di cui viviamo, e che non ci sarebbero più né umanità né animali né terra, o senza riflettere che un'irrimediabile e assai verosimile catastrofe potrà essere determinata nell'etere dall'attività incessante e frenetica che si cela sotto l'apparente immutabilità del Sole. Ci si occupa delle proprie faccende senza pensare a quei due mondi, l'uno troppo piccolo, l'altro troppo grande, perché ci si renda conto delle minacce cosmiche che essi fanno aleggiare su di noi. Così i Verduren, poi presto la sola Madame Verduren, perché il signor Verduren morì di lì a poco, davano dei pranzi e il signor di Charlus correva ai suoi piaceri, curandosi ben poco che i tedeschi fossero immobilizzati, è vero, da un sanguinoso baluardo sempre rinnovato, a un'ora d'automobile da Parigi. Eppure, si dirà, i Verduren ci pensavano, dal momento che avevano un salotto politico in cui si discuteva ogni sera la situazione non solo degli eserciti, ma anche delle flotte. Loro ci pensavano, in effetti, a quelle ecatombi di reggimenti annientati, di passeggeri inabissati. Ma un'operazione inversa moltiplica a tal punto quanto concerne il nostro benessere e divide per una cifra talmente sbalorditiva quanto non lo concerne, che la morte di milioni sconosciuti ci tocca appena e quasi meno spiacevolmente d'una corrente d'aria. Madame Verduren, le cui emicranie si erano aggravate da quando non aveva più croissant da inzuppare nel caffè latte, aveva finito con l'ottenere da Cottard una ricetta che le permetteva di farsene fare in un certo ristorante di cui abbiamo parlato. La cosa era stata difficile da ottenere quasi quanto la nomina d'un generale da parte delle autorità competenti. La padrona riprese il suo primo croissant il mattino in cui i giornali raccontavano il naufragio dell'Lusitania. Inzuppando il croissant nel caffè latte e dando dei buffetti al giornale perché restasse aperto senza che ci fosse bisogno di distogliere l'altra mano dall'inzuppamento, commentava: «Che orrore! C'è più orrore qui che nella più terrificante delle tragedie!» Ma la morte di tutti quegli annegati doveva apparirle ridotta a non più di un miliardesimo, giacché, mentre faceva a bocca piena queste riflessioni desolate, l'emozione che le si dipingeva sul viso suscitato probabilmente dal sapore, così prezioso contro l'emicrania, del croissant, era più che altro quella d'una dolce soddisfazione. Quanto al signor di Charlus, il suo caso era un po' diverso, ma ancora peggiore, giacché egli non si limitava a non augurarsi appassionatamente la vittoria della Francia, ma arrivava ad augurarsi, pur senza confessarselo, se non proprio il trionfo della Germania, perlomeno che la Germania non fosse annientata come si auguravano tutti. E questo perché, in tali dispute, i grandi insiemi di individui chiamati nazioni si comportano anch'essi, in un certo senso, come individui. La logica che li guida è affatto interiore e continuamente rifusa dalla passione, come quella delle persone che si affrontano in un litigio amoroso o domestico, per esempio il litigio d'un figlio col padre, d'una cuoca con la padrona, d'una moglie col marito. Chi ha torto crede invece d'aver ragione, era il caso della Germania, e chi ha ragione dà a volte del proprio buon diritto argomenti che gli sembrano irrefutabili solo perché corrispondono alla sua passione. In questi litigi fra individui, per convincersi del buon diritto d'una qualsiasi delle parti, il metodo più sicuro è di essere quella parte. Uno spettatore non le darà mai altrettanto completamente ragione. Ebbene, nelle nazioni, l'individuo, se fa davvero parte della nazione, non è che una cellula dell'individuo-nazione. Il lavaggio dei cervelli è un'espressione priva di senso. Se qualcuno avesse detto ai francesi che sarebbero stati sconfitti, nessun francese si sarebbe disperato più che se gli avessero detto che stava per essere ucciso da un Bertha. Il vero lavaggio del cervello lo si fa da sé con la speranza, che è una forma dell'istinto di conservazione d'una nazione, se si è davvero membri vivi di tale nazione. Per restare ciechi di fronte a quanto c'è di ingiusto nella causa dell'individuo Germania, per riconoscere in qualsiasi momento quanto c'è di giusto nella causa dell'individuo Francia, il modo più sicuro non era per un tedesco non aver criterio, per un francese averne. Era, per l'uno come per l'altro, avere del patriottismo. Il signor di Charlus, che aveva rare qualità morali, che era accessibile alla pietà, generoso, capace d'affetto, di devozione, in compenso e per varie ragioni, fra le quali poteva svolgere un ruolo l'aver avuto per madre una duchessa di Baviera, non aveva patriottismo. Apparteneva dunque al corpo Francia come al corpo Germania. Se fossi stato anch'io sprovvisto di patriottismo, anziché sentirmi una delle cellule del corpo Francia, mi sembra che il mio modo di giudicare la disputa non sarebbe stato uguale a quello che poté essere un tempo. Nell'adolescenza, quando credevo esattamente a quanto mi si diceva, probabilmente, sentendo il governo tedesco protestare la sua buona fede, sarei stato tentato di non metterlo in dubbio. Ma da parecchio tempo sapevo che non sempre i nostri pensieri concordano con le nostre parole. Non soltanto avevo scoperto un giorno dalla finestra della scala uno Charlus che non sospettavo, ma soprattutto avevo visto in Françoise e poi, purtroppo, in Albertine formarsi giudizi e progetti così contrari alle loro parole che mai, nemmeno da semplice spettatore, avrei lasciato qualche parola, giusta in apparenza, dell'imperatore di Germania o del re di Bulgaria ingannare il mio istinto, che avrebbe intuito, come per Albertine, le loro macchinazioni segrete. Ma in fin dei conti, posso solo supporre ciò che avrei fatto se non fossi stato attore, se non fossi stato parte dell'attore Francia, così come nei miei litigi con Albertine, il mio sguardo triste, la mia gola serrata, erano parte del mio individuo appassionatamente interessato alla mia causa. Non mi era possibile giungere al distacco. Quello del signor di Charlus era totale. E dal momento che non era più che uno spettatore, tutto doveva condurlo ad essere germanofilo, visto che, non essendo veramente francese, viveva in Francia. Era molto fine, e gli stupidi sono, in ogni paese, i più numerosi. Non c'è alcun dubbio che se fosse vissuto in Germania, gli stupidi tedeschi, difendendo con stupidità e passione una causa ingiusta, lo avrebbero irritato. Ma poiché viveva in Francia, gli stupidi francesi, che difendevano con stupidità e passione una causa giusta, non lo irritavano di meno. La logica della passione, fosse anche al servizio del miglior diritto, non è mai irrefutabile per chi non è appassionato. Il signor di Charlieu coglieva con finezza ogni ragionamento fasullo dei patrioti. La soddisfazione che un imbecille ricava dal suo buon diritto e dalla certezza del successo è fonte di un'irritazione particolare. Per il signor di Charlieu lo era l'ottimismo trionfante di quanti non conoscevano come lui la Germania e la sua forza, che ogni mese credevano che essa sarebbe stata annientata il mese successivo e, passato un anno, non erano meno pronti a giurare su un nuovo pronostico, come se non ne avessero già fatti di altrettanto sbagliati che peraltro avevano dimenticati e dei quali, se qualcuno glieli ricordava, dicevano che non era la stessa cosa. E il signor di Charlieu, il cui intelletto ospitava qualche profondità, non avrebbe forse capito che il non è la stessa cosa è ciò che in arte i detrattori di Manet oppongono a chi dice: si è detto lo stesso di Delacroix,